Così vedi, stai facendo record? Sì. Ok. Così, ok. Anna mi sta chiamando. Così, non so, posso rispondere Anna e poi ti chiamo di nuovo? Sì. Ok, scusa. Oh God. No. Ciao Anna! Non mi senti? Okay, you have to put it onto Bluetooth. Just, no, go to the connection there. When you did it, you just have to... No, not that. What? Oh. No! Damn it. Fuck! No, we almost... it was working. No, okay, that's fine. Hold on. Okay, Julia, I'm fucking driving in traffic. Please. My God! No, really, you can't... Why is it not working? Hey, here, click on that, Bluetooth. My God. Hello, Anna! Anna, funziona adesso? Ok, bene, scusa. Ok, così, avevo appena chiamato Anna Dele, ma stavamo... Ok, così, ricordi questa interview cosa, vero? Che? L'interview per la mia scuola? No? Non ti ricordi? No. Ok. No. Ok, così per la mia scuola devo fare interview a qualcuno di un altro paese. Ah, sì, ok. Così stavo facendo quello con Anna Dele 3 secondi fa e poi mi ha chiamato. Ma posso anche fare con te, non so. No, vedi tu, è uguale. Ok, non so, forse faccio con tutte e due. Così ho qualche domanda. E sto usando questo per fare record, vedi? No, vedi? Okay. Ok, così la prima domanda è, il mio interview è di come è differente la scuola in Italia della scuola qui. But she doesn't know because she's never been to the schools here. Non lo so perché non ho mai fatto la scuola in America. È vero, ma come... Just ask her what schools in Italy. Come la scuola in Italia? Come funziona? Allora, è più piccola questo. Ok. Poi devi studiare tanto, tutti i giorni tanto. Ok. E poi boh, dipende da quello che fai, nel senso puoi andare al liceo oppure un po' più così, però se vai al liceo devi studiare un sacco. Ok. E come italiani, come vedete a come Stati Uniti? Come la idea che avete degli Stati Uniti? Non lo so, cioè, secondo me là fate più cose, cioè ci sono più opportunità, ci sono i discorsi, i corsi, noi non abbiamo niente, cioè quello facciamo una cosa, studiamo e basta. Ok, grazie, perfetto. Così devo chiamare Anna Dele adesso perché lei mi sta aspettando. Ma sì. Ok? Ok. Poi grazie. Prego. Ciao. Bye, ciao. Nah, I feel like a horrible person for some reason. Okay. So I'm gonna stop this recording. Wait, now I'm calling Anna Dele. Okay. Ciao! Ok, così. Sei pronta per le mie domande? Sì. Ok, prima domanda. Ok. La prima domanda è come la scuola in Italia? Come lo like describe it in Italia? Ok, e allora molto diversa da quella americana perché noi non abbiamo dei classi. Breaking up here. Wait, non sta funzionando. Mi senti? No. Puoi provare un'altra volta? Adesso ti sento. Mi senti? Sì. Ti sento. Ok, va bene se parlo in italiano. Sì, va bene. Allora, è diventata molto difficile perché a questo punto noi non abbiamo le classi come voi e le materie. Okay. Perché noi da questa abbiamo un'unica classe e siamo lì tutto il giorno, dalle 8 alle 2, a volte anche verso fino all'una, e ogni ora cambiamo professori e vengono i professori nella nostra classe, noi non ci muoviamo e sono i professori che girano. Poi un'altra cosa è che l'ultimo anno a scuola mia non abbiamo, ad esempio, tanto spazio, cioè sono molto più piccole delle vostre. Ok. Ad esempio, io ho una palestra, però molte scuole non hanno neanche una palestra e non abbiamo né piscina, né tipo campi da football, no, noi abbiamo tutte. Ad esempio, non abbiamo swimminger, niente, e sono molto più piccole delle vostre. Ask her what type of jobs she prepares her for. Ok, un'altra domanda è: quale tipo di lavoro la tua scuola ti aiuta, come ti prepara per? Capite quello che sto dicendo? Come? Okay, ok, ok. Allora, prepara per l'università e ad esempio posso fare ingegneria, medicina, in questo tipo diciamo è più completo degli altri licei. Poi ci sono ad esempio il liceo artistico che ti aiuta se vuoi fare ad esempio architettura o cose aziende in artista. Poi abbiamo ad esempio un liceo dove si fa solo matematica, scienza italiana. Poi c'è il liceo classico dove ad esempio si fa greco, latino e più italiano, quindi ti può diciamo aiutare se vuoi fare legge. Ci sono vari licei, ogni liceo ti prepara poi per un lavoro che dipende dalle materie che fai. Grazie! Ok, la prossima domanda è: come italiani, come vedete gli Stati Uniti? Come le idee che avete delle persone degli Stati Uniti? Aspetta. Vuoi che lo dico di nuovo? Sì. Ok. Come italiani, ovviamente tu sei italiana, come vedi gli Stati Uniti? Cos'è le idee che avete delle persone che vivono negli Stati Uniti? Ah, ok. Ok, allora... ad esempio noi pensiamo che il vostro cibo faccia un po' brutto, nel senso sia un po' costoso, diciamo così. Voi siate più nel senso aperti a fare delle cose, nel senso più disponibili, ad esempio questo, invece noi siamo più nel senso più tradizionalisti, ad esempio. Noi pensiamo che voi siete più nel senso più estroverti, fate più cose. Ask her when they focus on history, what kind of history do they teach? Okay. Tell her about their social studies. Okay. Quando studiate la storia, che cosa studiate? Noi facciamo dai romani, quindi dall'antica Roma, poi. No, mille, ad esempio dopo l'antica Roma abbiamo il Medioevo, io ad esempio ora sto facendo il Medioevo, poi dopo e poi 1700, 1800, illuminismo, così. Molto differente la scuola dove vado io, perché la scuola dove vado io cos'è? Non ho capito. Non ho capito. Ho detto solo, stavo dicendo che è interessante perché voi studiate. Voi studiate tanto della vostra storia in Italia, come del passato, ma noi studiamo come tutto, come il globo. Noi studiamo gli italiani, i greci, gli africani. Non veramente studiamo la nostra storia negli Stati Uniti. Studiamo come tutto. No, noi facciamo prestazioni, diciamo, l'Europa. So why don't you ask her about, do you study other people's identities? Yes. Un'altra cosa, ti ricordi che voi non avete sex, vero? Aspetta, non ho capito! Così, avete classi per sex ed? Non so come si dice in italiano, puoi fare tutto? No. Abbiamo una sola classe e siamo sempre là. Poi ad esempio possiamo avere il laboratorio di scienze e la sala dei computer, però abbiamo poi una sola classe. Ho risposto bene. Che cosa? Ho risposto bene. Sì, hai risposto benissimo. Ok. Vuoi vedere dalla mia finestra? Aspetta. Sì. Wow. È molto, diciamo, non è differente da qua, per esempio. Sì, e lì, vedi, lì ci sono delle bombe. Dove mettono bombe sotto terra di là? Perché? Perché non so, è una cosa militare che abbiamo lì. Ci sono come bombe militari. Ok. E questo è il blu. Non è molto di qua. Ma è molto nuvoloso. Ci sono molte nuvole. Siamo nella macchina in questo momento. Stiamo andando. Ricordi le foto che ti ho mandato con le pistole, sì, quello dove stiamo andando adesso, che è come un'ora dalla macchina. Stiamo andando come 120 km all'ora. Ma infatti sento. No, diciamo che è difficile, ad esempio matematica è difficile, poi anche io devo fare storia, mo dopo latino avrei fatto storia, ma voi latino lo fate? Latino? Sì. No. Noi possiamo, se vogliamo, possiamo studiare come messicano, italiano, giapponese e cinese. Ma la cosa è più bella. Forse. Adesso sto studiando spagnolo. Ok. Bello. Quanto manca? Nella macchina? Quanto manca per arrivare? Come 5 minuti. Ah, vabbè, è vicino. Ok, se vuoi, quando entro, ti posso fare vedere il posto. È molto interessante. Sì. Ci sono tante pistole. Ti posso chiamare quando entro nel posto. Ok. Ok. chi? Questo è il nostro ARC station. It's the trains that we have. Come si chiama trains? Treni? Treni, sì. I vostri treni sono più belli dei nostri. Quella è una cosa per sicuro. I nostri treni sono disportati. Ma... ma sì. Bart e Bay Area Rapid Transit. Sì, sì. Così, ok. Ciao, ti chiamo quando entro nel posto, ok? Ok, ciao. Grazie per fare il mio interview. Stop the recording? Has it been recording? Oh, yeah.